അരരെ അരരെ നടിച്ച സ്വർഗം നീവുലേ, നീ അടുകേ പടകാൻ അലികേ ഹൃദയം നാദിലേ. ഐതേ ഐതേ നിമിഷാലല്ലോ ഹായിക, നാ ആരോ പ്രാണം മൂവയ്യാവേ വിന്തക. നാ കണ്ടിട്ടിലോ കലലനു പരിച്ച ഇട്ടി തലുപ്പുലേ നീ കൈ തെരിച്ച നിന്നു പിളവടം തീരാ മരിച്ച അരവലനു കൊറുക്കിന ചാപ്പവനു ആ പുലിനി തരിമിന ജിങ്കവനു ആ നിന്നു വലച്ചിന പ്രിയുടെ നേന. ഓ ചിലക്ക രാ ചിലക്ക നാനു പുലപ്പടക്ക, ഓ മലക്ക രസഗൊളിക്ക നാ പൂവുല പലക്ക. ഓ ചിലക്ക രാ ചിലക്ക നാനു പുലപ്പടക്ക, അരരെ അരരെ നടിച്ച സ്വർഗം നീവുലേ, നീ അടുകേ പടകാൻ അലികേ ഹൃദയം നാദിലേ. మనసున ముల్లై గుచ్చి తనువున మాలలు వేసి తనువు మొత్తం మనసు చేసి వెళ్ళకు విడిచి ఈ ప్రేమ అన్నది ఒక విత్తు లాంటిది అది అణువు అణువులో వనమై పెరిగే లాలించి అడగనా తల వంచి అడగనా ఆపవే నిజము చెప్పవే నీకు నాకు నడుమ ప్రేమ కలదని. చిలక రా చిలక నా నిప్పుల పడక, ఓ మలక రసగుళిక నా పువ్వుల పలక. ఓ చిలక రా చిలక నా నిప్పుల పడక, బాననక ఎన్ననక వస్తా నీ వెనక. ശാല